Eccoci rientrati in diretta, abbiamo un compagno al telefono del coordinamento cittadino di lotta per la casa, Andres, ciao, buongiorno. Ci sei? Pronto? Ci sono, sì. Ecco, ciao. Allora, ciao. Oggi alle 16.30 partirà questo corteo da Piazza dell'Esquilino per la giornata internazionale. Perché c'è un po' di gente qua. Ah, ho ti capito. Adesso lontano, dimmi. Provo a sistemare un po' meglio il volume. Dicevo, oggi corteo per la giornata internazionale dedicata ai migranti. Insomma, Andres, basta andare a leggere quelli che sono i diritti sanciti dalla convenzione a partire dalla quale nasce proprio l'indizione di questa giornata nel corso degli anni 90, insomma, per capire, rendersi conto quanto sia una carta abbastanza così poco osservata, insomma, perché tutti i diritti sanciti da quella convenzione non sono assolutamente rispettati, a partire dal diritto alla vita, no? Per poi anche andare a vedere quanto ancora oggi ci siano trattamenti inumani, degradanti, ancora ci sono degli immigrati nelle campagne meridionali, ad esempio, che vengono praticamente ridotti in schiavitù, per non parlare dello status dei rifugiati, dei richiedenti asilo. Insomma, è tutto ancora da fare, no? Pronto? Sì. Ok. Guarda, mi sono perso l'introduzione che hai fatto, perché non riesco a sentire. Ah, mannaggia. Cioè, però io ti sento molto lontano. Tu mi senti? Sì, noi sentiamo abbastanza bene. Ok, dunque, sì. Bene, e da dove prendo? Prendo da qui, dall'appuntamento delle 4:30? Sì, facciamo così. Io volevo stavo mettendo in luce quanto fosse enorme il contrasto tra la convenzione a partire da cui nasce la giornata del 18 dicembre e le condizioni che vivono i migranti, no? Ah beh, certo, che la distanza è enorme, si pensi, è ancora più grande anche rispetto a quello che noi vogliamo manifestare in piazza oggi. Oltre a questo, naturalmente, anche la situazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati, di quelle persone che praticamente non hanno, vengono considerate al di, cioè, senza stato, senza nessuna legislazione che possa in qualche maniera garantirle un minimo di rispetto per i diritti che devono essere sanciti per tutti. Queste persone, cioè noi, che diciamo? Diciamo che dobbiamo innanzitutto cercare di trovare a muovere un po' queste storie delle commissioni che sono lente, della questura che ritarda, appunto, che evitano di prendere in carico le domande, che ci raggiostrano sul tra il permesso del stato del rifugiato e i permessi per come si dice per cosa, per, cioè, che sono prese di soggiorno di 3 mesi che vanno rinnovate costantemente in attesa di che le commissioni si esprimano, che si raggiunga questo stato, le negazioni di questo diritto che avvengono sempre in modo più continuativo. Queste sono le difficoltà che creano, appunto, alle persone, che impediscono veramente di raggiungere uno stato anche di sicurezza per loro stessi, essendo, appunto, persone che arrivano già perseguitate dal proprio stato. Sì, peraltro questa convenzione, che è stata appunto ufficializzata anche dalle Nazioni Unite, che successivamente hanno proclamato anche loro questa giornata internazionale dedicata ai migranti, prevede anche che sia combattuto lo sfruttamento dei migranti e dei membri delle loro famiglie in tutte le fasi del processo migratorio, senza distinzione tra regolari e irregolari. Esatto, poi in realtà sì, non è così, anzi, in questo, vabbè, come in altri paesi, no? È una commissione sul lavoro, no? Che quindi prevede, appunto, che è garantire in qualche maniera un modo di sfruttamento. Non è che questa differenziazione tra regolare e irregolare è semplicemente per garantire, appunto, mano d'opera là dove serva, e che lo sfruttamento è un protasso dello sfruttamento. E poi c'è da ricordare che i paesi, appunto, di immigrazione, non quelli da provenienza, quelli dove si arriva, non nessuno di loro ha firmato questa convenzione, praticamente, che è stata approvata, è riuscita ad approvare per le Nazioni Unite grazie a paesi di immigrazione, paesi che hanno bisogno proprio di una commissione di questo tipo che garantisca dei diritti ai propri cittadini. sembra essere praticamente quasi dimenticato, eppure è stato pochissimo tempo fa, quanto successo a Lampedusa, no Andres? Visto che il trattamento assolutamente intollerabile di cui sono vittime i migranti che si trovano nel centro di accoglienza di Lampedusa, no? Abbiamo visto queste immagini veramente agghiaccianti. E lo so, poi continuiamo appunto a dimenticare che tutto si ripete, no? Che con la storia appunto della disinfezione del tipo razzista, si continuano a fare, che ne so, dei trattamenti massivi sono appunto la conferma che questi luoghi devono essere cancellati, perché le persone non possono essere trattate in questo modo. È una cosa veramente vergognosa che ancora esistano questi posti. E poi non si è dimenticare anche i morti di Prato, cioè vogliamo parlare anche di questa, di una fabbrica che produce morte. Cioè, e questo è... Io non so che cosa stia aspettando ancora per provare in qualche maniera anche con le forze che ci sono nella città, nel paese, di provare a cambiare questo stato di cose. Noi nel nostro piccolo cerchiamo sempre di riconfermare non una forte costruzione del mondo antirazzista, ma piuttosto un mondo che riesca a strappare qualche cosa di più a questi governi che naturalmente non cercano sempre di impedire qualsiasi modo di rivalsa dei popoli oppressi. Peraltro il testo che indice il corteo di oggi è molto chiaro rispetto a ciò che si vuole ottenere e per cui si sta in piazza, no? Cioè qui chiudere la vergogna dei CIE, c'è scritto, stracciare la Bossi-Fini senza tornare alla Turco Napolitano, conquistare una legge organica che garantisca il diritto d'asilo, spazzare via il business dell'accoglienza per conquistare condizioni di vita degne per chi arriva in Italia, partendo dal diritto alla casa e all'abitare. Da questo punto di vista, un piccolo passo avanti l'hanno fatto i migranti stessi, occupando ad esempio, no, i posti quali quello di Piazza Indipendenza. Insomma, il diritto alla vita e all'abitare, in un modo o nell'altro, ce lo si conquista da soli attraverso le lotte sociali, no? Esatto, perché quello poi questa gente che sta nel messaggio, quella che è il maggiore ricatto, no? Perché se tu sei in un centro appunto di queste di identificazione, d'accoglienza, cosiddette, per richiedente asilo, hai delle garanzie anche di tipo sanitario, hai qualcosa, cioè anche delle facilitazioni che altrimenti non hai. Quindi tu quando metti ti riprende praticamente la tua vita dicendo vabbè, io rinuncio a questo carcere, che comunque è un carcere che mi limita i miei diritti, me ne vado a occupare, me ne vado a riprendere in qualche maniera la mia vita e a lottare per trasformare queste cose. Questa è la cosa importante che noi rivendichiamo con l'indipendenza, di riuscire a poter dire che gli immigranti, cioè, non cominciano a rifiutare questi CIE, cominciano a rifiutare questi centri di identificazione per richiedenti asilo. I CARA devono essere chiusi quanto i CIE, questo è quello che stiamo dicendo noi. Senti, l'ultima cosa, oggi in piazza appunto scenderà una composizione sociale diversa, se vogliamo, da quella che abbiamo visto anche negli ultimi giorni, certamente da ascrivere, insomma, no, a un diverso significato di come si intende la ricomposizione, che non vede, a partire dal colore della pelle, alcuna differenziazione tra chi subisce, no, il peso della crisi. Quindi non c'è una rivolta italiana in agguato che non ci piace più di tanto, in questo caso di nuovo la Roma meticcia, come più volte si è scritto. Infatti poi appunto c'è questa Roma vera, questa Roma che sussiste, che è la trasformazione sociale che è avvenuta in questi anni, e che non è quella falsa nostalgia di popolazione pura che si manifesta da un'altra parte, quei valori della italianità, che non è più quelli su cui si è fondata questa Repubblica, sulla cosa questi valori che praticamente legano, impediscono a una società di evolversi, di svilupparsi completamente. Quello che cercano appunto i forconisti è quello, è ritardare una crescita, uno sviluppo di una società che già è meticcia, che già è ha altri valori che si costruisce giorno dopo giorno con la lotta soprattutto e con le trasformazioni sociali che noi impulsiamo e cerchiamo sempre di dare sfogo in qualche maniera contro ogni tipo di repressione, ogni tipo di violenza che venga anche da giudici o politici corrotti. Senti Andres, allora ci si vede questo pomeriggio alle 16:30 per conquistarsi anche l'agibilità di piazza. Sappiamo che ci sono stati anche dei problemi nell'ottenimento dei permessi per stare in piazza, insomma, quindi oggi ce lo si conquista così dal vivo, metro per metro, ore 16:30 a Piazza dell'Esquilino. Va bene? D'accordo, arrivederci e a presto. Ciao. Ciao.